Il mistero del male. Male e peccato. Quanto detto aiuta a comprendere il paradosso rappresentato dalla cultura oggi diffusa che inneggia alla libertà, ma rifiuta la responsabilità e quindi l'idea di peccato, che per questo tende a scomparire sempre più. Effettivamente, il male stesso, per sua natura, sfugge la verità, in modo tale da accecare chi lo commette. Esso rifugge la luce. Eppure i suoi effetti sono evidenti, come dimostra l'incremento della violenza laddove il senso del peccato viene perso. Costantemente la sofferenza provocata dal peccato viene ricondotta ad elementi necessari o scaricata su capri espiatori, dimenticando che la ragione ultima del male è personale. Proprio questa verità è l'elemento fondamentale del brano di Genesi 3:1-24, dove si narra la caduta dei progenitori tentati da Lucifero. Il giardino è immagine del mondo rivestito dei tratti dello spirito. Il serpente richiama la fecondità degli antichi culti orientali, tentazione costante per Israele. La caduta inizia con il sospetto insinuato sull'alleanza con Dio, con la diffidenza nei confronti del Creatore, con il rifiuto dei limiti del proprio essere, cui consegue il folle tentativo di sfuggire alla misura del bene e del male per determinare da soli ciò che corrisponda a verità. L'uomo, con il peccato, cerca di farsi da solo, di affidarsi alle proprie capacità, a prescindere dalla sorgente da cui esse derivano. In questo modo egli nega di essere creatura e di possedere l'essere solo come dono, e quindi solo nella relazione con il Creatore, che è padre e sorgente di bene. Ma se l'uomo vuole essere Dio da solo, se rompe la relazione con Lui, cambia anche il suo rapporto con l'altro, che diventa rivale, perché di Dio non ce n'è che uno solo. Cambia quindi anche il rapporto con il mondo. L'uomo diventa una caricatura di Dio, schiavo del proprio potere. Per questo Joseph Ratzinger sottolinea che nella Genesi il peccato non è descritto in termini generali, ma che si tratta del peccato di qualcuno, di Adamo in concreto, da cui inizia la storia del peccato. Il peccato, infatti, genera peccato in un circolo infernale particolarmente evidente nelle vendette e nell'escalation delle faide. L'uomo, che è solamente grazie alla relazione, si uccide se taglia la relazione, e peccare significa proprio turbare o distruggere la relazione. Per questo la caduta trasforma tutto il mondo e tutta la storia. Ogni uomo che nasce è immerso in relazioni turbate che solo il Creatore può restaurare. Solo l'amore di Dio può ristabilire e purificare l'amore umano. Ciò è evidente nel Nuovo Testamento, ad esempio in Filippesi 2:5-11. Gesù Cristo percorre in senso inverso il cammino di Adamo. Lui è veramente come Dio, perché è Dio, ma si fa servo e si mette tutto in relazione con la creatura. Così, egli è il nuovo Adamo che dà inizio alla nuova umanità restaurandone le relazioni. Le braccia spalancate sulla croce sono segno di questa relazione assolutamente aperta che è più forte della morte e del peccato. La croce si rivela allora come albero della vita, figura opposta al serpente, e l'Eucaristia come albero permanente della vita. Essa realizza non solo la comunione fraterna, ma ancor prima e ad un livello più fondante, la comunione e l'unione con Cristo crocifisso, con il Figlio e quindi con il Padre. Paradossalmente il Calvario è dunque il paradiso, come avviene per il buon ladrone, Luca 23:43. Guardando alla creazione dalla prospettiva del Calvario, quindi del Paradiso, tutto viene trasfigurato perché ne traspare il senso autentico ed emerge tutta la gravità del peccato. La creazione stessa canta la gloria di Dio. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e rispondono, eccoci, e brillano di gioia per colui che le ha create. Baruch 3:34. L'uomo però, rispetto alle stelle, può fare ciò in modo consapevole, ma in fondo al cuore cova il sospetto che dare gloria a Dio voglia dire perdere la propria gloria. Autori come Nietzsche lo hanno sostenuto definendo il cristianesimo una religione per i deboli, alienazione e rinuncia a ciò che è proprio. Si ignora qui proprio l'ontologia del dono, si dimentica che la creazione è un dono fatto da Dio all'uomo, la realtà è dono. Dio non è allora avversario, non è nell'altra squadra, non è il professore che fa l'esame o l'esattore delle imposte. Dio e l'uomo sono invece dalla stessa parte. L'uomo radicalmente non esiste senza Dio, ma come visto, per essere se stesso deve dare gloria a Dio, deve rendere grazie per il dono. Veniamo dal nulla ed esistiamo per l'amore di Dio. Siamo dono. E tutto ciò che è più vero è dono. È esperienza comune, anche se spesso non ci si pensa, che le realtà fondamentali e più preziose dell'esistenza, la vita, l'amore, la fede, l'amicizia, si possono solo ricevere gratuitamente e non si possono invece conquistare. Il peccato allora è essenzialmente sospetto nei confronti di Dio e agire contro il dono, negandolo o ignorandolo. Il peccato è sospetto sulla filiazione, sul fatto che Dio sia veramente buono e padre, sorgente del dono. Ogni uomo ha la tendenza a mettersi al centro di tutte le cose, al centro dell'universo, ma gradualmente, per eventi più o meno traumatici, per successive o repentine prese di coscienza, si rende conto che la realtà fuori di lui gli offre resistenza. Per questo inizia ad interrogarsi sul perché. Diventare realista è il cammino a cui è chiamato l'adolescente, che a poco deve scoprire il proprio valore in quei limiti che lo caratterizzano come creatura e che inizia a percepire appieno per la prima volta nel confronto con il mondo extrafamiliare. Solo allora può scoprirsi come dono nella propria limitatezza. Ma questo implica il passare dalla ribellione contro chi mi ha dato la vita con i limiti ad essa connessi, essere da, alla domanda sul fine, essere per. Essere uomini maturi implica assumere la responsabilità della propria libertà, cessando di piangersi addosso per quello che non si è avuto, per l'imperfezione, perché il mondo non è come nelle favole, per mettere in gioco il bene reale, anche se finito, che costituisce il proprio essere, ora riconosciuto come dono. Essere uomini vuol dire dunque riconoscere e ridonare il dono. Così, la domanda sul male implica sempre una domanda sul perché, una richiesta di senso. Non basta l'essere da, che l'adolescente fugge come determinazione e imposizione, ma c'è bisogno dell'essere per, della scoperta che il senso dell'esistenza è nella capacità di amare, di ridonare quell'essere pur limitato che si è ricevuto. Così, nel dono di sé, l'uomo si incammina verso il bene senza limiti al quale aspira. Nell'esperienza del male si dà un confronto o uno scontro tra due logoi, quello interno dell'uomo e quello esterno della realtà, e questo scontro spinge l'uomo a pensare. La sofferenza è dunque essenziale e inseparabile dall'amore, almeno in questo mondo segnato dal peccato. L'uomo percepisce il dolore dentro, in quel cuore di figlio che sempre tende al padre e che anela a una vita infinita. Il desiderio di una pienezza assoluta, di un amore infinito, si scontra con il limite. La sofferenza non è semplicemente un problema fisico o esteriore, ma è interiorizzata. Anche gli animali soffrono, ma solo l'uomo si chiede il perché. Solo l'uomo può accettare il dolore. Solo l'uomo può amare il dolore perché solo l'uomo può trovarne il senso. E il dolore suscita la domanda su come la sua esistenza si concili con la paternità e la bontà di Dio. La verità della creazione, che implica la presa di coscienza del proprio limite, è liberante perché permette di comprendere che dietro ciò che viene percepito come un male ci può essere un bene più grande e che il bene si dà nel limite. Proprio perché è Dio, bene assoluto, ad aver creato questo mondo dal nulla. Per questo il male fisico può essere anche un bene, in quanto evidenzia il limite creaturale e rimanda al creatore come un torrente che conduce alla vera sorgente. Nel limite si può scoprire la relazione. Inoltre, all'origine del punto di vista del rapporto tra il tempo e l'eternità precedentemente trattata, La finitezza dell'esistenza umana non è disperante, perché la vita passata viene riscattata all'essere in pienezza e per sempre nella relazione con Dio. La bellezza sfiorita e il tempo passato accanto ad una persona cara non sono persi, ma sono depositati nel cuore del Creatore e del Redentore, che purificandone il contenuto d'amore li restituisce nell'eternità. Il male si può dunque comprendere solo nel contesto del raggiungimento del bene. Dio non ha creato la morte, ma la permette in vista del raggiungimento del bene. Permette il male fisico per il bene fisico e spirituale. Questo modo di agire di Dio suscita il sospetto dell'uomo. Per questo è essenziale distinguere tra ciò che Dio vuole e ciò che permette. Dio non voleva il peccato dell'uomo, ma lo ha permesso per trarre un bene più grande dalla possibilità di amare. E lo ha fatto pagando di persona, assumendo su di sé le conseguenze del nostro cattivo uso della libertà. Il problema del male è stato il tema più originario nella riflessione di Agostino, che inizialmente divenne manicheo e che, dopo una fase scettica, si convertì proprio perché il cristianesimo ne presentava la soluzione più vera e convincente. Così egli afferma che Dio non vuole il male, che è creato dalla libertà angelica e umana, ma Dio lo permette perché è capace di disporlo in modo tale da trarne del bene. E cita un magnifico esempio. Il male è come il silenzio, che non è qualcosa, ma è assenza di musica, e che il compositore sa disporre nelle pause per formare una bella melodia. Oppure il male è come l'ombra, che non è qualcosa, ma è assenza di luce, e che il pittore sa disporre per dare risalto alle forme. Genesi alla lettera 5:25. È facile cogliere l'immagine di Agostino pensando ai dipinti del Caravaggio.